Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nella lettura scorsa abbiamo visto la morte improvvisa e inaspettata della contessa Bezukhova a Pietroburgo, l'arresto di Pierre, il suo incontro con Platon Karatayev, poi abbiamo visto il procedere dell'amore tra Nikolai e Maria e infine la morte, invece quella prevedibile, del principe Andrei, che costituisce uno dei grandi momenti, anche giustamente celebri, del romanzo. Ma la vita va avanti e anche noi andiamo avanti. Durante il mese di saccheggio dell'esercito francese a Mosca era accaduto un mutamento nel rapporto di forze fra i due eserciti, in conseguenza del quale la preponderanza delle forze si trovò dalla parte dei russi. Sebbene la posizione delle truppe francesi e il loro numero fossero sconosciuti ai russi, appena mutò questo rapporto, la necessità dell'attacco si manifestò immediatamente. E subito, con la stessa precisione con cui nell'orologio comincia a battere e a suonare il concerto delle campane appena la lancetta ha fatto un giro completo, anche nelle alte sfere russe, in corrispondenza al mutamento essenziale delle forze, si ebbe come ripercussione un movimento accelerato, un ronzio e un concerto di campane. L'armata russa era diretta da Kutuzov e dal suo stato maggiore e dall'imperatore da Pietroburgo. A Pietroburgo, anche prima che giungesse la notizia dell'abbandono di Mosca, era stato fatto un piano particolareggiato di tutta la campagna ed era stato mandato a Kutuzov perché vi si attenesse. Il decrepito Kutuzov si fece svegliare presto, pregò Dio, si vestì e con la spiacevole coscienza di dover dirigere una battaglia che non approvava, montò in carrozza e uscì dalle Taskova, 5 miglia dietro a Tarutino, per andare al posto dove dovevano essere riunite le colonne di attacco. Kutuzov procedeva innanzi, ora addormentandosi, ora svegliandosi, e tendendo l'orecchio semmai sentisse dei colpi che annunciassero l'inizio dell'azione. Ma tutto era ancora tranquillo. Non era che il sorgere dell'alba di una giornata autunnale, umida e grigia. Avvicinandosi a Tarutino, Kutuzov notò dei soldati di cavalleria che conducevano dei cavalli all'abbeveratoio attraverso la strada per la quale andava la carrozza. Li osservò, poi fece fermare la carrozza e domandò loro di che reggimento fossero. I soldati appartenevano alla colonna che già doveva essere da un pezzo molto avanti, in imboscata. «Può essere un errore», pensò il vecchio comandante in capo. Ma procedendo innanzi, Kutuzov vide dei reggimenti di fanteria, coi fucili a fascio, i soldati intenti a far la cucina e a portare legna, in mutande. Fu chiamato un ufficiale, l'ufficiale riferì che nessun ordine di attacco era stato dato. Fra tutte le cose che poteva fare Napoleone, svernare a Mosca, andare verso Pietroburgo, andare verso Nizhny Novgorod, andare indietro, più a nord o più a sud, per quella strada che prese poi Kutuzov, o scegliere un'altra ipotesi qualsivoglia, non era possibile immaginare nulla di più stolto e di più dannoso di ciò che fece Napoleone, cioè restare fino ad ottobre a Mosca, permettendo alle truppe di saccheggiare la città. Il geniale Napoleone lo fece, ma dire che Napoleone rovinò il suo esercito perché lo volle rovinare o perché era molto stupido sarebbe altrettanto ingiusto quanto dire che Napoleone condusse le sue truppe a Mosca perché volle farlo e perché era molto intelligente e geniale. Nell'uno e nell'altro caso la sua attività personale, che non aveva maggior forza dell'attività personale di ciascun soldato, coincideva soltanto con quelle leggi secondo le quali l'evento si compiva. Falsamente gli storici ci rappresentano le forze di Napoleone come indebolitesi a Mosca. Egli, tal quale come prima e come dopo, nel 1813, adoperava tutte le sue capacità e tutte le sue forze a fare il meglio per sé e per le sue truppe. L'attività di Napoleone in quel tempo non fu meno prodigiosa che in Egitto, in Italia, in Austria e in Prussia. Noi non sappiamo con certezza quanto fosse effettiva la genialità di Napoleone in Egitto, dove 40 secoli guardavano la sua grandezza, perché tutte quelle grandi gesta ci sono descritte soltanto da francesi. Noi, grazie a Dio, non abbiamo nessun motivo di riconoscere la sua genialità per nascondere le nostre vergogne. Noi abbiamo pagato per avere il diritto di guardare le cose in faccia e con semplicità, e non rinunziamo a questo diritto. Per rialzare lo spirito delle truppe e del popolo si facevano continuamente riviste, si distribuivano ricompense. L'imperatore passeggiava a cavallo per le strade e confortava gli abitanti e, malgrado tutte le preoccupazioni degli affari di Stato, egli stesso frequentava i teatri istituiti per ordine suo. Anche riguardo alla beneficenza, la virtù migliore dei sovrani, Napoleone fece tutto ciò che dipendeva da lui. Sugli istituti fece scrivere Maison de ma mère, unendo con questo atto il tenero sentimento filiale alla grandezza della virtù del monarca. Visitò la casa dei trovatelli e, dando a baciare le sue mani bianche agli orfani da lui salvati, fece distribuire la paga alle sue truppe in denari russi falsi, fatti fabbricare da lui. In quanto alla disciplina dell'esercito, si emanavano continuamente ordini perché fossero severamente punite le inadempienze agli obblighi militari e perché si mettesse fine al saccheggio. Ma, fatto strano, tutte queste disposizioni, queste cure e questi progetti, che certo non erano peggiori di altri messi fuori in circostanze simili, non toccavano l'essenza delle cose, ma, come le sfere di un quadrante d'orologio separate dal meccanismo, giravano arbitrariamente e inutilmente senza ingranarsi con le ruote. Questo esercito francese, calpestando come un gregge senza sorveglianza il cibo che avrebbe potuto salvarlo dalla morte per fame, si sfasciava e si rovinava maggiormente ogni giorno di più che passava a Mosca, ma non si muoveva. Si mise a fuggire soltanto quando fu preso dal timor panico prodotto dalla cattura di convogli sulla strada di Smolensk e dalla battaglia di Tarutino. Questa medesima notizia della battaglia di Tarutino, ricevuta inaspettatamente da Napoleone a una rivista, risvegliò in lui il desiderio di punire i russi ed egli diede l'ordine di partenza che tutto l'esercito chiedeva. Fuggendo da Mosca, gli uomini di questo esercito presero con loro tutto ciò che avevano saccheggiato. Anche Napoleone portò via con sé il suo proprio tesoro. La situazione di tutto l'esercito era simile alla situazione di un animale ferito che si sente perduto e non sa che cosa fa. Studiare le abili manovre di Napoleone e gli scopi suoi e del suo esercito dal momento dell'entrata a Mosca fino alla distruzione di questo esercito è come studiare il significato dei salti e delle convulsioni agoniche dell'animale ferito a morte. Molto spesso l'animale ferito, sentendo un fruscio, si getta sotto i colpi del cacciatore e affretta da sé la sua fine. Lo stesso fece Napoleone sotto la pressione di tutto il suo esercito. Il fruscio della battaglia di Tarutino aveva spaventato la fiera ed essa si gettò avanti sotto i colpi, corse fino al cacciatore, tornò indietro e finalmente, come tutte le fiere, corse via per la strada più dannosa e pericolosa, ma dove c'era una vecchia traccia ben nota. Napoleone, che ci viene rappresentato come colui che guida tutto quel movimento, come la figura scolpita sulla prua d'un bastimento sembra ai selvaggi la forza che guida il bastimento, Napoleone, in tutto quel periodo della sua attività, fu simile al fanciullo che, afferrandosi alle cinghie fissate nell'interno della carrozza, si immagina di guidare. Il 6 ottobre, la mattina presto, Pierre uscì dalla baracca e, tornato indietro, si fermò presso la porta a giocare con un cagnolino color lilla, lungo di corpo sulle zampette brevi e storte, che gli girava intorno. Questo cagnolino stava con loro nella baracca, passava la notte con Karatayev, ma a volte se ne andava in città e poi ritornava. Probabilmente non era mai appartenuto a nessuno, e anche ora non era di nessuno e non aveva nome. Il fatto di non appartenere a nessuno e di non avere nome né razza e neppure un colore preciso pareva non preoccupasse affatto il cagnolino Lilla. Teneva in su come un pennacchio, rigida e tonda, la coda pelosa. Le sue zampe storte lo servivano così bene che spesso, come se disdegnasse di usarle tutte e quattro, ne alzava graziosamente una di dietro e correva, agilissimo e rapido, su tre zampe. Tutto per lui era oggetto di divertimento. Ora, abbaiando di gioia, si rotolava sulla schiena, ora si riscaldava al sole con un'aria pensierosa e importante, ora saltellava, giocando con un trucciolo o una pagliuzza. Pierre era molto cambiato fisicamente in quel tempo. Non sembrava più grasso, benché avesse sempre quello stesso aspetto di grossezza e di forza, ereditario nella loro famiglia. La barba e i baffi avevano coperto la parte inferiore del viso. Dei lunghi capelli arruffati, sulla testa piena di pidocchi, gli si arricciavano formando come un berretto di pelo. L'espressione degli occhi era sicura, tranquilla, animata e pronta a tutto, come mai aveva avuto lo sguardo di Pierre. Il suo rilassamento d'una volta, che si esprimeva anche nello sguardo, aveva fatto posto ora a un raccoglimento energico, pronto all'azione e alla resistenza. I suoi piedi erano scalzi, e ogni volta che guardava i suoi piedi scalzi, sul suo viso correva un sorriso di viva soddisfazione. La vista di quei piedi scalzi gli ricordava tutto ciò che aveva vissuto e capito in quel tempo, e quel ricordo gli era grato. Il tempo, già da qualche giorno, era mite, chiaro, con leggere gelate la mattina, la cosiddetta estate di San Martino. L'aria al sole era tiepida, e quel tepore, col fresco fortificante della gelata mattutina che ancora si sentiva nell'aria, era particolarmente piacevole. Su tutte le cose, lontane e vicine, era sparsa quella magica luce cristallina che c'è soltanto in quel momento dell'autunno. Si vedevano lontano i Monti dei Passeri, col villaggio, la chiesa e una grande casa bianca, e gli alberi denudati, la sabbia, le pietre, i tetti delle case, la chiesa e gli angoli di una casa lontana, tutte queste cose si profilavano nell'aria trasparente con linee finissime e con una precisione straordinaria. Vicino si vedevano le note rovine d'una casa signorile mezzo bruciata che i francesi occupavano, coi cespugli di lillà ancora d'un verde scuro cresciuti lungo la cinta. E anche quella casa rovinata e deturpata, che respingeva per la sua bruttezza quando il tempo era cupo, ora, nella chiara, immobile luminosità, pareva avere una tranquilla bellezza. Un caporale francese, sbottonato alla casalinga, col berretto e una pipa corta fra i denti, uscì da dietro l'angolo della baracca e, ammiccando familiarmente, si avvicinò a Pierre. «Che sole, Monsieur Kirill?» Così tutti i francesi chiamavano Pierre. «Si direbbe la primavera». E il caporale si appoggiò alla porta e offrì la pipa a Pierre, benché sempre l'avesse offerta e sempre Pierre l'avesse rifiutata. Pierre gli domandò che cosa si sentisse dire della partenza e il caporale raccontò che quasi tutte le truppe erano partite e che ora doveva venire l'ordine per i prigionieri. Nella baracca dove stava Pierre, uno dei soldati, Sokolov, era moribondo e Pierre disse al caporale che bisognava provvedere per quel soldato. Il caporale disse che Pierre poteva stare tranquillo, che per quello c'erano ospedali ambulanti e stabili, che si prendevano provvedimenti per i malati e che in generale tutto ciò che poteva accadere era previsto dai superiori. E dopo aver chiacchierato un altro poco, il caporale se ne andò. Alcuni prigionieri avevano sentito che Pierre parlava col caporale e subito cominciarono a domandare che cosa avesse detto. Mentre Pierre raccontava ai suoi compagni quello che il caporale aveva detto a proposito della partenza, si avvicinò alla porta della baracca un soldato francese, magro, giallo e lacero. Con un rapido e timido gesto, alzando le dita alla fronte in segno di saluto, si rivolse a Pierre e gli domandò se in quella baracca c'era il soldato Platoche, al quale aveva dato una camicia da cucire. «Pronta, pronta, Falchetto!» disse Karataev, uscendo fuori con una camicia accuratamente piegata. Karataev, per via del caldo e per stare comodo lavorando, stava in mutande e con una camicia tutta lacera, nera come la terra. I suoi capelli, come usano gli artigiani, erano legati con un fascetto di stoppa e il suo viso tondo pareva ancora più tondo e più simpatico. «L'accordo è fratello dell'affare. Avevo detto per venerdì e per venerdì l'ho fatta», disse Platon. Il francese si guardò intorno inquieto e, come vincendo un'esitazione, si tolse rapidamente l'uniforme e indossò la camicia. Sul nudo corpo giallo e magro aveva un lungo panciotto di seta a fiorellini, unto e bisunto. Il francese evidentemente temeva che i prigionieri che lo guardavano si mettessero a ridere e in fretta infilò la testa nella camicia. Nessuno dei prigionieri disse una parola. «Vedi, sta proprio giusta», diceva intanto Platon. Il francese, dopo aver infilato la testa e le braccia, senza alzare gli occhi, guardava la camicia che aveva indosso e ne osservava le cuciture. «Che vuoi, Falchetto? Qui non è una sartoria e non ci sono gli arnesi del mestiere. E si usa dire, senza arnesi non s'ammazza neanche un pidocchio», disse Platon col suo largo sorriso, evidentemente soddisfatto del proprio lavoro. «C'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste», disse il francese. «Andrà ancora meglio quando l'avrai portata addosso», disse Karataev, che seguitava a rallegrarsi dell'opera sua. «Ti andrà bene e la porterai volentieri». Pierre vedeva che Platon non voleva capire ciò che diceva il francese e senza entrare nella cosa li osservava. Karataev ringraziò per i denari e seguitò ad ammirare il suo lavoro. Il francese insisteva però per gli avanzi e pregò Pierre di tradurre ciò che egli diceva. «Ma perché diamine vuole gli avanzi?» disse Karatayev. «Me ne verrebbe un paio di fasce da piedi magnifiche. Ma che Dio lo protegga!» E Karatayev, con un viso diventato a un tratto tutto triste, tirò fuori dal seno un involtino di ritagli e lo diede al francese, senza guardarlo. Il francese guardò il pezzo di tela, pensò un poco, guardò Pierre interrogativamente, e lo sguardo di Pierre parve dirgli qualche cosa. «Platoche! Dai, Platoche!» gridò a un tratto il francese con voce acuta, arrossendo. «Teneteli per voi», disse, dandogli i ritagli. Poi si voltò ed uscì. «E guarda un po'», disse Karatayev scuotendo il capo. «Dicono che sono miscredenti, eppure hanno un'anima anche loro. I vecchi nostri dicevano, la mano sudata è larga, la mano asciutta è avara. È nudo lui, ma me li ha dati». E Karatayev, sorridendo e guardando gli avanzi, tutto pensieroso, stette un po' di tempo zitto. «Ah, ma le fasce, amico mio, saranno magnifiche», disse, e tornò nella sua baracca. Erano passate 4 settimane dal momento in cui Pierre era stato fatto prigioniero. Sebbene i francesi gli avessero offerto di passare dalla baracca dei soldati in quella degli ufficiali, egli era rimasto nella baracca dove era entrato il primo giorno. Nella città rovinata e incendiata, Pierre aveva provato quasi l'estremo limite delle privazioni che un uomo può sopportare. Ma in grazia della sua forte costituzione e della sua salute, delle quali fino allora non aveva avuto coscienza, e specialmente perché queste privazioni erano venute così insensibilmente che sarebbe stato impossibile dire quando erano cominciate, egli sopportava non soltanto facilmente, ma anche allegramente la sua posizione. E proprio in quel tempo egli acquistò quella calma e quella soddisfazione di sé alle quali invano aveva aspirato prima. Lungamente nella sua vita aveva cercato da varie parti quella tranquillità e quell'accordo con se stesso che tanto l'avevano colpito nei soldati alla battaglia di Borodino. Li aveva cercati nella filantropia, nella massoneria, nelle distrazioni della vita mondana, nel vino, in un eroico atto di abnegazione, nel suo romantico amore per Natascia. Li aveva cercati attraverso il pensiero e tutte quelle ricerche e quei tentativi l'avevano sempre ingannato. E senza pensarci, aveva ottenuto questa calma e quest'accordo con se stesso soltanto attraverso il terrore della morte, attraverso le privazioni, attraverso ciò che aveva compreso in Karatayev. Quei terribili momenti che egli aveva passati assistendo all'esecuzione parevano aver cancellato per sempre dalla sua immaginazione e dalla sua memoria i pensieri e i sentimenti inquieti che prima gli parevano importanti. Non gli veniva neppure più il pensiero della Russia, della guerra, della politica, di Napoleone. Era evidente per lui che tutto ciò non lo toccava, che non vi era chiamato e perciò non ne poteva giudicare. Ora gli pareva incomprensibile e anzi ridicolo il suo proposito di uccidere Napoleone. La sua ostilità contro la moglie e il suo timore che il suo nome fosse disonorato gli sembravano ora cose non solo insignificanti, ma divertenti. Che gli importava che quella donna conducesse laggiù la vita che le piaceva? A chi poteva importare, e specialmente a lui, che i francesi scoprissero che il loro prigioniero si chiamava Conte Bezukhov? Spesso egli rammentava ora la conversazione col principe Andrei ed era pienamente d'accordo con lui, soltanto comprendeva in modo un po' diverso il pensiero del principe Andrei. Questi pensava e diceva che la felicità è soltanto negativa, ma lo diceva con una tinta di amarezza e di ironia, come se, dicendo questo, volesse manifestare un altro pensiero, che cioè tutte le nostre aspirazioni ad una felicità positiva sono poste in noi soltanto per tormentarci e non per soddisfarci. Ma Pierre, senza reconditi pensieri, riconosceva che quell'idea era giusta. L'assenza del dolore, il soddisfacimento dei bisogni e per conseguenza la libertà nella scelta delle occupazioni, cioè del modo di vivere, sembravano ora a Pierre la più indubitabile e la più alta felicità dell'uomo. Ora soltanto, per la prima volta, Pierre aveva apprezzato pienamente lì il piacere del cibo quando aveva voglia di mangiare, del bere quando aveva voglia di bere, del sonno quando aveva voglia di dormire, del caldo quando faceva freddo, del conversare con qualcuno quando aveva voglia di parlare e di ascoltare una voce umana. Tutti i sogni di Pierre ora tendevano al momento in cui sarebbe stato libero. Eppure in seguito e per tutta la sua vita Pierre si ricordò e parlò con entusiasmo di quel mese di prigionia, di quelle forti e liete sensazioni che non sarebbero più tornate, e specialmente di quella piena tranquillità d'animo, di quella perfetta libertà interiore che egli aveva provata soltanto in quel tempo. Quando il primo giorno, alzandosi presto la mattina, uscì all'alba fuori dalla baracca e vide da principio le cupole scure e le croci del monastero di Novodievice, vide la rugiada gelata sull'erba polverosa, vide le cime dei Monti dei Passeri e le rive boscose che scendevano verso il fiume e si perdevano nella lontananza violacea, quando sentì il contatto dell'aria fresca e udì le voci delle gracchie che attraversavano la piazza volando via da Mosca, e quando poi a un tratto la luce brillò dall'oriente e sorse maestoso il disco del sole fuori dalle nuvole, e le cupole, le croci, la rugiada, la lontananza e il fiume tutto danzò in una luce gioconda, Pier provò un sentimento nuovo, non mai provato, di gioia e di vigore di vita. E questo sentimento non soltanto non l'abbandonò per tutto il tempo della prigionia, ma al contrario crebbe in lui a misura che aumentavano le difficoltà della sua posizione. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it. Thank you.